Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Radio 24 Reportage. Covid-19, città in movimento. Trasporti alla prova di scuola e lavoro. Diana Marino. Da settembre il trasporto pubblico locale è tornato alla fase pre-Covid. Il vero banco di prova sono le scuole e il rientro almeno parziale dallo smart working che mettono a dura prova le città italiane. Con Radio 24 per una settimana siamo stati in viaggio tra autobus, metropolitane, tram per capire chi si muove e come si muove con le testimonianze raccolte da colleghe e colleghi. A Milano da Maria Luisa Pezzali, a Genova da Andrea Ferro, a Roma da Alessandra Schepisi, a Napoli da Laura Vigiano. Per tastare oggi il polso dell'Italia che, ante Covid-19, in un giorno medio feriale registrava circa 100 milioni di spostamenti, oltre 8 su 10 in auto e moto, il 14,2% con mezzi pubblici e oltre 14 milioni al giorno. Soltanto a Milano, prima del coronavirus, si registravano 2,2 milioni di passeggeri al giorno su tutta la rete e abbiamo visto e sentito che tra mascherine, distanziamenti e plexiglass le città si sono messe in movimento. E sono con il fiato sospeso in attesa dell'avvio della scuola chiusa per quasi 8 mesi, record in Europa. Fa un primo punto Andrea Gibelli, presidente di Astra, l'associazione delle aziende pubbliche del trasporto locale. Indubbiamente le linee guida hanno trovato una mediazione tra il governo e le regioni. Le nostre richieste era ad arrivare almeno all'80% della capacità dei mezzi e questo ci rassicura sull'alert che avevamo posto in ragione dell'ingresso degli studenti con l'apertura dell'anno scolastico. E la capacità è stata alzata dal 60% all'80%, quindi sicuramente stiamo parlando di cifre che passano da 8-9 milioni di passeggeri a 13-14, quindi l'aumento del solo 20% rispetto a grandi numeri che spesso non si ha la sensazione di che cosa porta il sistema del trasporto pubblico locale, parla di milioni di persone, quindi faremo il possibile con queste nuove regole garantendo la massima sicurezza a bordo come abbiamo sempre fatto dal primo giorno post lockdown. Il rientro a scuola e il graduale ridursi dello smart working, che impatto avranno? È una domanda non semplice a cui dare risposte, è altrettanto vero che i dati ci dicono che le persone che hanno lavorato in smart working durante il lockdown sono passate da 500.000 a 6 milioni. È ovvio che oggi c'è un rientro al lavoro in ragione dell'esperienza che in questi mesi, pur drammatica, si è costruita, molte aziende si stanno organizzando per prolungare lo smart working, prevediamo che ci sia una perdita di passeggeri attorno al 20%. Per quanto riguarda il nodo risorse, c'è ancora? Sì, c'è ancora perché purtroppo, pur apprezzando lo stanziamento di 900 milioni in due decreti da parte del ministro De Micheli, dai dati che abbiamo oggi non c'è corrispondenza tra l'aumento di traffico e gli introiti da bigliettazione. In più, il fondo stabilito non attinge solo il TPL come speravamo noi, ma ci sono altri soggetti che attingono al medesimo fondo, la restituzione dei vecchi biglietti e abbonamenti, altre forme di trasporto che attingono al TPL, quindi avendo stimato una perdita di 800 milioni a luglio, le aziende sono in forte difficoltà. Quanti soldi mancano all'appello e che cosa si dovrebbe fare subito per le aziende di trasporto? Augurarsi che nella legge di stabilità ci sia una cifra compatibile con le nostre stime. Le nostre stime prevedono circa 800 milioni. Sono una cifra stimata ad oggi per consentire alle imprese di chiudere il bilancio in pareggio. Va capito fino in fondo quanto gli introiti da bigliettazione incideranno su questa cifra nei prossimi 4 mesi, le nostre stime non sono confortanti. Abbiamo iniziato da Milano, dove si cerca di garantire una mobilità diffusa a partire dalle bici e i monopattini e dove, come in tutta Italia, l'obiettivo è l'utilizzo all'80% del trasporto pubblico, perché non si punti solo sull'auto privata. Qui la riapertura delle scuole materne e asili nido e ulteriore rientro dei cittadini dalle vacanze ha inciso solo in parte sul flusso di passeggeri rispetto al periodo pre-Covid, ma ci si prepara alla sfida dei prossimi mesi. Con 25.000 corse in superficie e oltre 1.400 in metropolitana, come conferma Alberto Zorzan, direttore operation di ATM. Partiamo a titolo pieno con quello che noi chiamiamo il servizio invernale, anticipando di fatto di una settimana il momento in cui prevediamo il massimo afflusso con l'apertura completa degli istituti scolastici. Fino ai giorni scorsi siamo stati intorno a un 55% della saturazione della capienza che mettevamo disponibile. Riteniamo di poter far fronte a quella che sarà la domanda di trasporto. Al di là della necessità e delle abitudini e della messa in sicurezza dei trasporti, oramai a regime, insieme alla responsabilità dei cittadini, è necessario registrare un cambiamento. La frequenza ridotta dei mezzi pubblici a Milano segnala una città che ha cambiato modalità di trasporto, scegliendo tra un ventaglio di possibilità dalle due ruote, bici o moto, auto insieme a bus e metro, e può essere una nuova tendenza, si estende a tutta Italia e influenzerà anche economicamente la mobilità pubblica e privata, come spiega l'assessore del Comune di Milano, Marco Pietro Granelli, coordinatore degli assessori alla mobilità sostenibile dell'ANCI. Attualmente noi abbiamo un trasporto pubblico che in questi giorni è entrato all'orario invernale al 100% dell'offerta di servizio, in previsione appunto dell'apertura delle scuole di lunedì. Stiamo implementando, per utilizzare le nuove regole che quindi entreranno in vigore da lunedì, che ci porteranno vicino appunto all'80% previsto. I cittadini che utilizzano il trasporto pubblico sono aumentati, abbiamo superato il 50% del pre-Covid, siamo ormai al 55%, crediamo che con le misure permesse dalle linee guida si possa avere un sistema capace di reggere. Stiamo cercando, diciamo, di implementare tutta la sanificazione dei mezzi, perché vogliamo che il trasporto pubblico sia, diciamo, il più sicuro possibile dal punto di vista igienico-sanitario. Chiediamo ai cittadini magari un po' di pazienza e di mettere in conto qualche minuto in più per i viaggi, perché appunto nel caso magari nelle ore di punta o dove ci sono dei sovraffollamenti, noi abbiamo pronti dei mezzi aggiuntivi, però ecco, magari qualche attenzione da parte di tutti ci vuole. Il modello di sostenibilità e di mobilità diffusa di Milano, della Lombardia, che va dalle bici fino alla metropolitana, può essere replicabile in tutta Italia? Crediamo di sì, almeno nei centri urbani. Poi è chiaro che le azioni che noi abbiamo messo in campo sono legate anche a un'area densa di popolazione, e tra l'altro molte delle misure, ad esempio sulla ciclabilità, le abbiamo condivise con i miei colleghi delle città, e quindi crediamo che questa sia un'evoluzione che come comuni stiamo spingendo. Cioè se tutti ci aiutiamo a rendere possibile l'uso delle due ruote, della bici in particolare, il più possibile, potremmo diminuire il traffico nelle città e quindi avere un buon trasporto pubblico abbinato alle due ruote, che è la risposta migliore per evitare traffico e inquinamento. Andiamo a Genova, dove dall'inizio di settembre i passeggeri sono il 75-80% rispetto alla media pre-Covid, quando erano circa 130.000 i genovesi che almeno una volta al giorno salivano su un mezzo, in attesa di una nuova normalità con l'apertura delle scuole. A Genova si spostano in treno pendolari e studenti dalle vallate e dall'entroterra, ma grazie all'indice di riempimento dei convogli, è uguale in tutta Italia all'80%, non ci sono più differenze tra regioni. Ma che cosa succederà se su un bus in città saliranno più passeggeri rispetto al limite massimo dell'80% della capienza, fissato appunto dall'ultimo decreto? Lo spiega Marco Beltrami, amministratore unico di AMT, che fa anche il punto sulla situazione. Noi abbiamo una procedura per cui l'autista, se ha occasione di accorgersi, però ripeto, l'autista guida e deve guidare, però avesse sensazioni di un particolare affollamento, c'è una procedura per cui l'autista chiama il centro operativo e il centro operativo in qualche modo interviene. Può intervenire o immediatamente mettendo un altro mezzo a disposizione o anche coinvolgendo eventualmente i vigili urbani segnalando che si sta creando una situazione di affollamento eccessivo. La situazione genovese è abbastanza particolare perché in realtà oggi rispetto alla settimana scorsa per noi non è cambiato molto. Noi abbiamo già avuto dai primi di settembre un recupero dei traffici, dei passeggeri abbastanza significativo rispetto ad altre città. Ci teniamo su un 75-80% di passeggeri, che mi risulta rispetto ad altre città essere abbastanza importante. Faccio riferimento anno su anno, cioè rispetto all'analoga giornata dell'anno scorso. Quindi un traffico che è abbastanza ritornato. Nodo nevralgico, la capitale, autobus, tram e metro iniziano a riempirsi in attesa dell'operatività piena della prossima settimana. Il trasporto pubblico, da sempre sotto pressione, vede alcuni nodi da sciogliere. Secondo i sindacati, il 25% delle fermate degli autobus sarà a rischio assembramento con la ripresa, ma il Campidoglio rassicura che ATAC e Roma TPL torneranno a livello di servizio invernale a partire da settembre e che i servizi integrativi verranno erogati con l'uso di mezzi privati. Massimo Proietti, segretario di Wilt Trasporti. Lunedì riaprono le scuole e noi abbiamo sempre la preoccupazione di chi dovrà, come operatori del trasporto pubblico locale, controllare chi sale, chi scende, chi ha la mascherina e chi non ha la mascherina, soprattutto in un sistema aperto come quello di Roma, dove ci sono 8.400 fermate, dove non sappiamo quante persone troviamo alla fermata. Dobbiamo essere supportati da una presenza sul territorio, soprattutto delle operatori, delle forze armate e dei vigili urbani. E infine a Napoli, le quattro funicolari in tempi normali ante-Covid trasportavano circa 70.000 utenti al giorno. Non ci sono assembramenti, ma si creano file di attesa negli orari di punta. Per tutto il resto del trasporto pubblico, traghetti, agli scafi compresi, si è provveduto a una riorganizzazione. Il direttore generale dell'ANM, Gennaro Narducci. Abbiamo rimodulato i programmi di esercizio per favorire le direttrici maggiormente cariche. Quindi su quelle aree, su quelle direttrici, non c'è stata una riduzione così drastica. Viceversa, l'azienda, chiaramente non avendo una disponibilità infinita di mezzi, autobus e di conducenti, ha dovuto penalizzare alcune aree della città in termini di servizio. Quindi mediamente, forse il dato può essere ritenuto corretto, sulle singole linee, per quello che è stato messo in campo, la riduzione è stata inferiore. Il nostro obiettivo è di fare ulteriori adeguamenti organizzativi per portare la capacità di trasporto dei mezzi su gomma, della metro e delle funicolari all'80%. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.